Scuola in controluce. E si inizia tutta la tran tran di tutti i giorni, è una noia. No, alla fine vabbè, comunque è piacevole alla fine. Ma mi aspetto, non so, dei prof più, più permissivi, meno severi. Appena finito gli esami e quindi dimentichiamo scuola per 6 giorni fino all'inizio e poi purtroppo ricomincia. E ho 3 debiti purtroppo. Arte, latino e matematica. Non ho mai fatto a prendere il debito in arte? Questa è la domanda che mi fanno tutti. E ho una prof un po' infame, diciamo così. Non è stata colpa mia. E cosa ti aspetti l'anno prossimo? Di fare meglio sicuramente. Cioè, almeno spero di non battere il record. Mi aspetto un anno duro. Eccole qua le voci di chi in questi giorni torna sui banchi, le loro speranze, le loro paure, vacanze finite, nelle voci raccolte da Livio Lazzari fuori da un liceo milanese. Sì, perché la pacchia è davvero finita, i primi a tornare a scuola sono stati gli studenti della provincia di Bolzano la settimana scorsa, oggi è toccato invece a quelli della Val d'Aosta, poi domani Molise e poi ancora tutti gli altri. La prossima settimana i più fortunati dunque sono gli studenti di Liguria, Calabria, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Basilicata ed Emilia Romagna. Ma c'è poi qualcuno che sarebbe dovuto tornare a scuola domani e invece non lo farà. Sono i bambini di materne, elementari e medie di Campobasso. Infatti il sindaco Luigi Di Bartolomeo si è molto arrabbiato. Dice: le mie scuole non hanno l'agibilità e insomma io ho paura. E allora sentiamolo Di Bartolomeo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Che problema hanno le sue scuole, Di Bartolomeo? Allora, per intanto io non ho paura per me stesso, ho paura per i bambini. Eh certo, perché, come darle torto? Io ho 70 anni e ora dovessi andare dentro non significa nulla. Ma se un bambino si dovesse far male perché la scuola non è agibile o ancora qualcosa di peggio, voglio dire, e allora sì che mi dovrei impiccare. Allora, io sono arrivato al comune nel 2009. Ho scritto agli uffici quali sono le scuole agibili, nessuna, mi sono messo al lavoro, nel 2010 ho appaltato tutte e 20 plessi scolastici a 20 ditte diverse, 60.000 euro. E li hanno fatti i lavori? Hanno finito i lavori, manca l'antincendio e manca qualcos'altro, perché nel frattempo... Quindi il certificato non c'è... che mi obbliga a fare, mi chiude con il patto di stabilità. Cioè mi dice tu non puoi spendere una lira, se no sei morto. Allora io che fare? Non posso andare avanti, non posso mettere a continuare l'agibilità delle scuole e i vigili del fuoco, cioè lo Stato, mi viene a dire le scuole non sono esercibili. Se le vuoi aprire, le apra lei. Uomo avvisato, mezzo soldato. Siccome l'Italia sa che il Molise è stato oggetto di un terremoto, San Giuliano di Puglia, docet, il sindaco ha perso un video sotto la struttura, un altro l'hanno recuperato, ha avuto l'onda della galera e gli stanno prendendo tutti i beni. Questo è nulla rispetto alla vita dei bambini. Prima i bambini, poi il sindaco. Quindi allora, insomma, Di Bartolomeo, si aprono o no queste scuole? Ha avuto qualche risposta in questi giorni? Sono stato ricevuto al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero degli Interni, devono fare un briefing loro due per emanare il nuovo decreto che non riguarda il Molise ma riguarda tutta Italia, perché tutti i sindaci d'Italia sono in quelle condizioni, solo che chi vi parla, voglio dire, l'ha tirato fuori il problema, perché sennò qua non ne parla più nessuno. Allora è un problema serio, lo faranno, reitereranno quel decreto per altri 5 anni, allora che cosa cambia rispetto a oggi? Niente, però c'è la condivisione con i genitori, certo, con le famiglie. Che tutti sappiano. Grazie Di Bartolomeo, grazie mille. E adesso sentiamo qual è la risposta invece del Ministero della Pubblica Istruzione. Abbiamo con noi in linea Giovanni Biondi, che è il capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, a cui però chiediamo un attimo di pazienza perché c'è un aggiornamento dalla redazione, in particolare da Daniele Biacchessi. Daniele, che succede? C'è un ferito a Roma e sono in atto da almeno mezz'ora durissimi scontri nel centro di Roma tra polizia, carabinieri e operai dell'Alcoa, in scontri che sono iniziati circa mezz'ora fa, prima con un fitto lancio di mini lamine di alluminio, poi con bottiglie. Poi ancora con petardi e con bombe carta. Le forze dell'ordine hanno risposto manganellando prima alcuni partecipanti alla manifestazione e subito dopo sono iniziati gli scontri che sono ancora in corso. Sto guardando le immagini e sono immagini che ci portano veramente indietro nel tempo. Continua in questo momento il fitto lancio di bombe carta davanti al Ministero. La polizia ha caricato i manifestanti che stavano prima arretrando ma restando sempre nei pressi del Ministero. Poi si sono fermati molti con le mani alzate urlando vergogna. La conferma che ci sia un ferito tra gli operai viene anche dalle forze dell'ordine e in questo momento la cancellata del Ministero è di nuovo oggetto di un fittissimo lancio di bombe carta, un'esplosa anche all'interno. Quindi la manifestazione dell'Alcoa che era iniziata questa mattina in modo tranquillo è degenerata secondo qualcuno in modo inevitabile. Non sappiamo se ci fossero presenti anche altri soggetti al di fuori degli operai dell'Alcoa. Grazie a Daniele Biacchessi per questo aggiornamento. Naturalmente nel prossimo GR24 alle 14 avremo ulteriori aggiornamenti su quanto sta succedendo a Roma. Ecco, dicevamo che il Codacons ha lanciato, abbiamo sentito il sindaco di Campobasso Di Bartolomeo, ieri il Codacons addirittura ha lanciato un appello a tutti gli altri sindaci perché seguano l'esempio di Campobasso e lasciano chiuse le scuole che non abbiano tutti i certificati in ordine. Siamo in diretta con Giovanni Biondi, capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali del MIUR. Biondi, che cosa rispondiamo a Di Bartolomeo ma anche ad altri sindaci che insomma dovessero avere, e sappiamo non essere pochi, delle scuole non a norma nel proprio comune? Sì, buongiorno. Come diceva il sindaco, noi stiamo preparando questa norma insieme ai colleghi del Ministero degli Interni per dare del tempo in più agli enti locali per mettere a norma, soprattutto dal punto di vista del certificato dell'antincendio. Naturalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è a carico dei proprietari degli stessi, che sono i comuni e le province. Quindi il Ministero ha fatto un intervento proprio prima dell'estate su 1565 edifici delle quattro regioni del sud con propri fondi, con fondi diciamo del PON, quindi fondi europei che però possono essere utilizzati nelle quattro regioni obiettivo 1, quindi Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Biondi, però se si deroga per quanto riguarda le norme antincendio, non è che le scuole siano più sicure? Certo, cioè si cambia la legge, si fa una forzatura della legge, ma le scuole sempre poco sicure, diciamo, in realtà restano. Si deve dare maggior tempo agli enti locali per poter intervenire, perché è chiaro che noi abbiamo un patrimonio edilizio che è un patrimonio vecchio. Noi abbiamo, lei pensa, abbiamo 1500 scuole che sono state costruite prima del Novecento, del 1900, e abbiamo, diciamo, la maggioranza, solo il 23% degli edifici scolastici è stato costruito dopo il 1980, che comunque è 30 anni fa. Quindi è chiaro che noi abbiamo un patrimonio che nella maggioranza dei casi è stato costruito nel dopoguerra, quindi oltre il 60% degli edifici sono tra 1900. Certo, però Biondi, ieri il ministro Profumo ha detto comunque si deve riaprire, anche lei è di questa opinione, si deve riaprire in una battuta. Certo, si deve riaprire. Ma se noi ragioniamo in questi termini, anche moltissimi edifici pubblici, voglio dire, hanno gli stessi problemi. E questo non consola. Grazie mille a Giovanni Biondi del MIUR. Abbiamo già citato San Giuliano di Puglia e bambini morti nel terremoto. E poi c'è Vito Scafidi, 17 anni, morto per il crollo di una trave dal soffitto. Ora sua madre, nel 2008, sua madre Cinzia Caggiano, dopo aver vinto la causa penale, va avanti con quella civile citando in giudizio la provincia e non solo. Vorrebbe che all'edilizia scolastica andassero i soldi dell'8 per mille. No, insieme alla senatrice Bastico e Benvenuti in Italia abbiamo pensato appunto di trovare dei fondi per l'edilizia scolastica, visto come sono messe le scuole, dove 9 milioni di studenti rischiano la vita tutti i giorni. E la cosa che più ci è piaciuta a tutti e tre è stata quella che un cittadino è libero di scegliere a chi donare l'8 per mille, visto che adesso è solo per le chiese noi possiamo far scegliere ai cittadini se darlo alle chiese o alle edilizie scolastiche. Il mondo politico lo vede sensibile su questo argomento, in questi anni lei ha lavorato moltissimo in tal senso, è aumentata la sensibilità? L'attenzione sull'edilizia scolastica è aumentata perché tutti quanti hanno dei figli, anche i politici, e la vicenda di Vito ha toccato tutti quanti, perché nessuno può morire a scuola. Il genitore è pronto all'incidente stradale, è pronto alla malattia, ma quando i nostri figli sono a scuola noi dovremmo essere tranquilli. Siamo più preoccupati se stanno male e restano a casa che non quando sono a scuola, ma Vito ha passato questa cosa qui. A scuola si può morire, e non solo per colpa del terremoto, anche solo se sbatte una porta. Un saluto da Maria Piera Ceci, domani Italia in controluce, scuola in controluce invece torna lunedì.